purificherà i tuoi desideri, ti libererà dalla paura della morte. La tua salute fisica sarà il risultato di una vita temperata, sobria, pia, saggia. Non guarderai più al passato nell'amara nostalgia di una giovinezza che non ritorna, e al futuro con paura e ansia. Aspetterai con pazienza il giorno in cui Gesù ritornerà per regnare con giustizia. Se egli tarda, ti aspetta il paradiso, perché è un luogo preparato per gente preparata da Dio. In definitiva, con la mente di Cristo avrai il senso delle cose di Dio. Fai la scelta più importante della tua vita. Scegli Cristo e il suo regno. Diversamente, se tu dovessi morire nella condizione nella quale ti trovi ora, dovresti desiderare di non essere mai nato. Se non scegli il regno di Dio, alla fine non fa alcuna differenza sapere cosa hai scelto al suo posto. Rinuncia ad essere il padrone della tua volontà, rinnega te stesso e vivi per Cristo. Se perdi per amor suo la vita che hai, la ritroverai, e amerai ciò che Dio ha fatto, farai ciò che Egli ama. Si vive, in definitiva, come bisogna morire. Dicembre 1999. Ellero.